Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Fra poco sentirete parlare il professor Rischio, che insegna a Cambridge, Inghilterra. Buonasera a tutti e a tutte, benvenuti a Möbius e allora ascoltiamo insieme i titoli di questa puntata. Fra allarmi eccessivi e soluzioni sempre a portata di mano ci vuole una saggia posizione intermedia, è il problema della percezione del rischio. Anche le scimmie conoscono metodi antistress. I cebi dai cornetti si spulciano per attenuare la tensione e prevenire i conflitti all'interno del gruppo. Farfalle e banconote. Sembrerà strano, ma questi meravigliosi insetti possono darci preziosi suggerimenti per limitare le contraffazioni. La fisica delle particelle svela i segreti dei quadri di Leonardo. Gli acceleratori ci aiutano a datare e studiare gli antichi dipinti. Un nuovo software di acustica permette di curare stati di ansia e di stress attraverso i suoni. È un brevetto italiano selezionato per l'Expo 2010 di Shanghai. Sono qui in studio con Fabio Turone per parlare del professor Rischio. Ciao Fabio. Buonasera. Ci diamo del tu, sei un giornalista di scienze, in particolare lavori nell'area medica, nella quale certo il tema del rischio è significativo. Però ascoltiamo un attimo le parole di questo professor Rischio che ci introduce al nostro tema. My name is David Spiegelhalter. I'm a professor of the public understanding of risk. It's a strange job title, but it means I look at the uncertainties we all face in our lives. Allora, questo è un video che si può trovare su YouTube, Fabio. Lui è veramente un professor Rischio, no? Sì, lui è il professor David Spiegelhalter e insegna all'Università di Cambridge questo tema del public understanding of risk, ovvero della comprensione delle tematiche legate al rischio da parte del pubblico. La cosa curiosa è che al termine di questo video, di cui abbiamo ascoltato solo le prime battute, lui dichiara di aver capito di aver bisogno di insegnare come assumersi il rischio. Lui deve diventare professor of public risk encouragement, cioè incoraggiamento al rischio. Ah, ad accettarlo come un dato fondamentale della nostra realtà. In queste prime pochi secondi che avete sentito, il professor Rischio dice che appunto lui deve riuscire a maneggiare l'incertezza. Ed è la cosa bella di questo video è che praticamente è doppio, c'è un montaggio digitale molto bello e ci sono due lui, perché è sempre lo stesso, che parte dalla mattina, no? Dove per esempio uno si fa una bella colazione pulita, l'altro si fa una tonnellata di salumi e quindi incomincia questa divaricazione, l'altro ha la sua macchina con la cintura di sicurezza, lui va senza mani con la bicicletta e quindi uno rischia tutto e l'altro cerca di proteggersi. Però il senso finale di questa divaricazione? Ma il senso finale di questa divaricazione, che viene spiegato molto chiaramente nelle immagini, è il fatto che ciascuno di noi ogni mattina alzandosi più o meno consapevolmente si assume dei rischi, perché ciascuna delle nostre attività è associata a un certo numero di rischi. E quello che spiega molto chiaramente, in modo molto divertente, il professor Spiegelhalter è che persino suonare le percussioni in una banda di samba per lui è un rischio importante, perché ha paura di fare una brutta figura. E in questo senso invita a considerare che gli inviti pubblici a guardarsi dal rischio rischiano, e mi scuso per il gioco involontario di parole, rischiano di nascondere una spinta a compiere, a prendere, assumere decisioni dettate da voleri altrui, e quindi diciamo di farsi influenzare inconsapevolmente, spinti dal desiderio irrealizzabile di evitare un determinato rischio. E qui però si vengono a formare, quando nella comunicazione e anche nella percezione di noi tutti, si viene a formare una strana situazione estrema. Da una parte leggiamo o ci arriva attraverso qualunque tipo di media, radio, televisione e appunto anche cose scritte, degli scenari tremendamente pieni di disastri, quindi nei quali i rischi che corriamo sarebbero altissimi e continui, e dall'altra c'è anche la tendenza a vedere tutto estremamente roseo e ottimistico. Per esempio, ecco, quando parliamo di salute ci sono un po' queste estremizzazioni. È un problema perché sono due cose antitetiche. Certamente è la classica contrapposizione tra affermazioni che spesso sono basate su un ampio margine di incertezza e che quindi sono meno scientifiche di quanto si pensi, perché essere scientifici spesso vuol dire tenere conto dell'incertezza, mentre nel linguaggio corrente essere scientifici vuol dire avere delle certezze su cui basare le proprie decisioni. In questo senso la classica contrapposizione è quella tra il titolo allarmistico e la dichiarazione rassicurante, l'abbiamo visto anche recentemente con il caso della British Petroleum, della piattaforma nel Messico. E in questo senso appunto è classico il fatto che il compito di chi deve veicolare queste informazioni è molto difficile, perché deve cercare di capire dov'è la ragionevolezza tra i due estremi. Senti, tu fai parte del comitato direttivo di una nuova associazione di giornalisti scientifici che ha proprio una sua mission: riuscire a trovare un linguaggio intermedio che per esempio in questa realtà del rischio o non rischio diventa fondamentale, mettere insieme programmaticamente scienziati e informatori. Sì, infatti questa associazione è nata da poco, ma diciamo è frutto anche di una serie di riflessioni che vanno avanti da anni all'interno della professione del giornalista scientifico o science writer, come ci siamo battezzati in inglese, ed è quella appunto di cercare di fornire strumenti ai giornalisti per evitare almeno gli errori più macroscopici, che sono peraltro frequenti e frequentemente ripetuti nell'ambito del giornalismo, non solo italiano. Tra queste, tra gli scopi diciamo concreti dell'associazione, c'è anche quello molto ambizioso di andare a discutere nei contesti scientifici delle difficoltà di comunicare queste questioni complesse, perché quello che noi vediamo come un limite spesso dell'accademia è quello di non vedere la difficoltà di comunicare in modi che sono comprensibili al destinatario della comunicazione. Allora, una delle cose innovative e che secondo me è molto interessante dell'approccio del professor Spiegelhalter di Cambridge è proprio quello di essere molto poco classico, perché classicamente vorrebbe insegnare a tutti la statistica. Lui è un biostatistico e in realtà è lui il primo oggi a dire: questo è un elemento del quadro. Quello che noi riusciamo a descrivere lo chiamiamo rischio. Quello che non sappiamo bene come descrivere lo chiamiamo incertezza. E lui ha anche un blog molto bello e molto interessante online che si chiama Understanding Uncertainty, ovvero comprendere l'incertezza, in cui ha messo online un giochino per cui proprio relativamente al mangiare o non mangiare tutte le mattine il bacon fritto, che compare nel suo video, spiega come si può dare una connotazione positiva o negativa, quindi dare uno spin al rischio in 2800 modi diversi, semplicemente presentando gli stessi dati di partenza con visualizzazioni diverse. Questo è una cosa che per i giornalisti deve essere il pane quotidiano, cioè devono sapere come una cosa viene percepita in modo più o meno spaventoso secondo la modalità con cui viene presentata. Però in questo obiettivo da raggiungere, e cioè di avere degli strumenti per comprendere in particolare queste cose scientifiche molto complesse, bisogna che giornalisti e scienziati lavorino insieme. Senz'altro quello è un obiettivo che noi ci prefiggiamo, cioè cercare gli scienziati più sensibili alle tematiche della comunicazione per vedere insieme a loro quali possono essere le modalità più efficaci per mettere le persone in condizione di decidere. Per entrare in contatto con questa associazione c'è un sito internet? Sì, abbiamo già creato un sito internet che è sciencewriters.it e chiunque vuole è invitato a mettersi in contatto con noi. Grazie Fabio, ciao, buon lavoro. Grazie, buonasera a tutti. La matematica è davvero uno strumento strano e molti dicono che siamo lontani dall'aver capito esattamente di che strumento si tratti. È usata tantissimo, certo, ma le sue potenzialità sono ancora misteriose. È una specie di magia, io credo. Infatti, sentite che cosa si può fare con i numeri, i simboli e anche i computer che la matematica spesso usa come una sua protesi potentissima. Una breve premessa. Pensate a un testo scritto, anche lungo, un romanzo. Possiamo considerare tutte le sue parole come delle forme geometriche, dei segni, indipendentemente dal fatto che abbiano un significato. Allora è possibile applicare la matematica a questa serie di simboli e studiare la loro struttura, individuando per esempio la frequenza di ognuno di essi. Scopriremo che certi segni sono molto frequenti. Nel testo scritto saranno certamente gli articoli, il, lo, la, no? Saranno questi qua. Mentre un segno come australopiteco potrebbe anche comparire una sola volta. E poi l'analisi del testo dal punto di vista matematico può anche dirci su come si dispongono questi segni. Gli articoli di cui prima vi dicevo, per esempio, bene, scopriremo che sono tanti e che sono però disposti in modo molto distribuito. Ogni 3 o 4 parole compaiono, non se ne stanno tutti insieme in un certo punto del testo. Ciò detto, se analizziamo tanti scritti con questo metodo, ne ricaveremo che tutte le cose scritte hanno una loro tipica struttura generale e questo risultato ci viene fuori senza aver interpretato il significato dei segni. È successo questo. Un gruppo di matematici finlandesi ha applicato la matematica a dei segni che appaiono su steli e bassorilievi in genere, su tante pietre, che appartengono a un'antica civiltà del ferro denominata Picts, che si trova nel nord della Gran Bretagna. Intorno all'anno 1000 prima di Cristo vivevano i Picts in questa zona dell'Inghilterra. Queste pietre presentano tanti disegni, tante forme appena in rilievo. Inizialmente si pensava fossero delle decorazioni, poi qualche sospetto su un possibile significato nascosto è emerso. Con la matematica dei matematici finlandesi si è scoperto che hanno proprio la struttura di un linguaggio. E certo, adesso bisognerà capire che cosa dico. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Siamo al nostro gioco e devo dire che oggi la domanda è veramente un po' strana. Allora, la domanda è la seguente. Che cos'è il tacchino induttivista? Prima possibilità, una varietà rara di tacchini che cresce in alcune regioni del nord dell'India. Ci scriverete India. Oppure, un esempio utilizzato in filosofia della scienza e ci scriverete filosofia. Terza e ultima possibilità è il personaggio di una favola scritta dal filosofo Bertrand Russell e ci scriverete favola. Dove? Con il solito SMS 349-238-6666 e il libro che si vince questa settimana è Esplorazioni e viaggi scientifici nel Settecento, scritto da Marco Ciardi, edito Burr Rizzoli. In collaborazione con IBS.it. Il cucù, non quello da muro, quello vero, l'uccellino. È un bel tipo, sapete? Sentite cosa vi racconta Barbara Gallavotti. La scienza, si sa, è fatta anche di notizie curiose ed era un po' che non ne collezionavo qualcuna. Recupero questa sera con una raccolta di notizie, ovviamente assolutamente prive di un qualsiasi legame fra loro. Per cominciare, mettetevi per favore nei panni di un piccolo uccello insettivoro africano che si chiama prigna. Bene, secondo i ricercatori, sono circa 20 milioni di anni che il povero uccellino si evolve parallelamente a uno sgradevole vicino. È un cucù e, come tutti i cucù, ha l'abitudine di deporre le uova nel nido di altri, nel nostro caso appunto la prigna. Il piccolo insettivoro cova l'uovo parassita e, quando si schiude, nutre il nidiaceo. Quindi il cucù abusivo sopravvive a scapito dei legittimi nati dalle uova dell'uccellino, i quali, nella maggior parte dei casi, purtroppo soccombono. Voi che fareste se foste una prigna? Ovvio, cerchereste di evolvere un modo per identificare l'uovo parassita e sfrattarlo prima che sia troppo tardi. Un gruppo di ricercatori di Cambridge ha studiato proprio le capacità degli uccellini di riconoscere l'uovo abusivo, il quale, va detto, assomiglia proprio tanto a uno legittimo. Bene, hanno scoperto che gli uccellini sono bravissimi a individuare l'uovo da eliminare. Lo fanno più o meno con la stessa abilità con cui un bravo cassiere individua un buon falso in una mazzetta di banconote. A colpo d'occhio, prigna analizza le sfumature di colore e la distribuzione delle macchie. Stranamente, però, non sembra far caso alle venature delle uova, che invece rappresenterebbero una chiave di identificazione molto importante. Ma c'è da scommettere che la battaglia evolutiva non è finita qui, ed è probabile che fra i cucù sia in corso l'evoluzione di un'imitazione ancora migliore. Cambiamo latitudine. Parliamo di quanto è difficile respirare in alta montagna, dove l'aria è sottile. La bassa pressione rende l'aria più rarefatta e ad ogni respiro entra meno ossigeno nei polmoni. Posso dirvi che effetto fa, perché mi è capitato di provarlo atterrando a Lhasa, in Tibet. Nel mio caso, la sensazione provata, un istante prima di svenire, era esattamente quella di respirare con la testa chiusa in un sacchetto di plastica. Altri sintomi sono il mal di testa, vertigini, e ci sono anche conseguenze gravissime, persino mortali, come l'edema cerebrale. Di solito, e in condizioni non estreme, l'organismo però si abitua. Risolve il problema producendo più emoglobina, cioè più molecola che porta l'ossigeno, e in questo modo riesce a utilizzare tutto quello disponibile. Ma come fanno i popoli d'alta quota, ad esempio i tibetani, i quali, è inutile dirlo, si muovono con la massima disinvoltura sulle vertiginose pendici delle montagne himalayane? Beh, il loro segreto pare che sia un gene, almeno secondo uno studio appena pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Science. In circa 10.000 anni di vita in alta quota, i tibetani avrebbero evoluto una variante di un gene coinvolto nella produzione di globuli rossi e nella concentrazione dell'emoglobina del sangue. Grazie a questa variante potrebbero vivere in alta quota e senza dover ricorrere all'espediente utilizzato da noi organismi di bassa quota, cioè aumentare la quantità di emoglobina del sangue, che non fa bene perché ha la grave controindicazione di rendere il sangue stesso più denso e viscoso. Infine, sapevamo da tempo che fra le vittime di guerra non si debbano contare solo i morti, i feriti e coloro che perdono persone care o i propri beni materiali. Lo hanno dimostrato diversi studi e, fra l'altro, una ricerca pubblicata a giugno sulla rivista Archives of General Psychiatry. Secondo la ricerca, 1 su 10 dei soldati americani rientrati dall'Iraq ha qualche serio problema dovuto a stress post-traumatico o a depressione. Per essere precisi, la percentuale oscilla tra l'8,5% e il 14%. Depressione e stress post-traumatico sono particolarmente subdoli perché non si presentano come ferite evidenti, ma possono portare a dipendenza da alcol o ad aggressività e quindi rendere impossibile la ripresa della vita in tempo di pace. I sintomi non sembrano attenuarsi a un anno dall'esposizione alla guerra e la cosa rappresenta un problema non solo per i soldati e per le loro famiglie, ma anche per i commilitoni, nel caso che questi feriti invisibili tornino al fronte senza essere nelle condizioni di agire con la massima lucidità. Ciao Chiara. Buonasera Federico, ciao a tutti. Ti vedo un po' tesa, se vuoi ti spulcio un po', ti gratto la testa. Puoi togliere dei parassiti? Sì. Ecco. Sì, scherza pure, ma in realtà è un metodo antistress messo a punto da alcune scimmiette, per la precisione i cebi dai cornetti, che sono delle scimmiette sudamericane di non grosse dimensioni, circa la grandezza di un gatto, per intenderci. Loro sono spesso protagoniste della nostra cronaca scientifica, perché ne abbiamo parlato spesso con la dottoressa Wiesalberghi, la nostra primatologa preferita. Le abbiamo sul sito www.moebiusonline.eu, ci sono diversi video in cui li ritraggono molto abili negli affari, molto abili nell'utilizzare l'utensile giusto per risolvere alcuni problemi. Però, e ora tornano stressati. Protagonisti. Sì. Un po' stressati, per la verità. Ecco, infatti c'è un gruppo italiano che li studia molto a fondo, che è l'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR di Roma, e qui con noi questa sera non c'è la professoressa Wiesalberghi, ma c'è una sua ricercatrice che è Eugenia Polizzi di Sorrentino. Buonasera. Buonasera. Buonasera, buonasera Eugenia. Ecco, questa volta la ricerca che cosa ci dimostra, dottoressa? Allora, la ricerca ci dimostra che in realtà queste piccole scimmie, i cebi, sono anche in grado di adottare in maniera molto efficace delle strategie di prevenzione del conflitto, in particolar modo utilizzando proprio il comportamento di cui parlavate prima, ovvero il grooming. Il grooming che cos'è? Definiamolo scientificamente. Bene, sì. Allora, scientificamente, o meglio, tecnicamente, il grooming è lo spulciamento del pelo che viene fatto tra i soggetti, tra le scimmie, alla ricerca magari di piccoli parassiti che si annidano tra i peli, ed ha ovviamente una funzione molto importante a livello igienico, che serve per mantenere il pelo pulito. Il fatto è che le scimmie passano molto più del tempo dovuto a strigliarsi e il fatto che ad esempio non tutti gli individui si strigliano allo stesso modo ha fatto sì che si supponesse che questo tipo di comportamento avesse anche una valenza diversa rispetto a quella igienica, ovvero una valenza sociale molto importante. E in effetti si è poi visto che il grooming viene spesso scambiato in maniera molto più frequente tra ad esempio parenti oppure tra i soggetti che dimostrano avere un'affinità maggiore fra di loro, quelle che possiamo definire amici, oppure ad esempio è stato visto che può essere usato proprio come una moneta di scambio, ovvero per ottenere altri favori in cambio, come ad esempio alleanze contro individui più pericolosi, oppure per ottenere la possibilità di avvicinarsi di più agli infanti, ai quali le scimmie in generale sono estremamente attratte, oppure ad esempio nel nostro caso proprio per richiedere o per ottenere un aumento di tolleranza in situazioni che sono magari pericolose perché sono di tensione o che sono caratterizzate da un aumento di aggressioni. Per attenuare un pochino l'ansia, e in questo caso voi l'avete osservato quando le scimmie avevano la tensione di ricevere il cibo e quindi di entrare un po' in competizione tra loro nel momento in cui veniva distribuito loro il mangiare. Esattamente, noi abbiamo osservato un gruppo di cebi in tre situazioni particolari. Il primo era un periodo che erano i 30 minuti prima della distribuzione del cibo, poi c'era la distribuzione del cibo stessa che avveniva in maniera molto regolare ogni giorno, sempre alla stessa ora, e poi una situazione di controllo. Le osservazioni hanno dimostrato che in realtà i cebi nei 30 minuti prima della distribuzione del cibo aumentavano in maniera significativa il tasso di grooming, e che questo comportamento effettivamente poi aveva delle conseguenze molto importanti nella successiva distribuzione del cibo, ovvero quando avveniva il grooming la spartizione del cibo era molto meno tesa, ovvero gli animali si aggredivano molto di meno e c'era molta più tolleranza. Quindi effettivamente questo studio ha dimostrato come il grooming possa essere utilizzato da queste scimmie come uno strumento molto efficace di prevenzione dei conflitti e di riduzione della tensione. Ma come è nata questa cosa? Adesso le faccio una domanda alla quale probabilmente non è possibile rispondere. Mi domando com'è che può nascere questa pratica? Tutte le scimmie fanno il grooming? Praticamente non solo. Tutte le scimmie fanno il grooming, sì. E, in realtà l'importanza sociale di questo comportamento può essere in qualche modo paragonata al nostro accarezzarsi? Al nostro, a livello così tattile, sicuramente quello di accarezzarsi, perché si è visto che in questo comportamento in realtà è associato ad un rilascio di un particolare tipo di neurotrasmettitore, che sono le beta endorfine, che sono dei neurotrasmettitori legati alla sensazione di piacere. Quindi ovviamente la relazione fra il grooming e la riduzione della tensione passa attraverso la produzione di questi neurotrasmettitori, che quindi rilassano in qualche modo l'animale, proprio come ad esempio negli uomini le carezze oppure i grattini. Certo. La valenza più che altro sociale, oltre a questo, è il fatto di poterlo utilizzare in maniera specifica nei confronti di chi vogliamo noi o di chi vogliono appunto le scimmie, nel caso, per cui magari farlo di più nei confronti di chi ha per loro più valore, quindi ad esempio i parenti oppure gli amici. Però lo fanno tutti. È un comportamento etologico molto diffuso nei primati ma anche negli altri animali. Nei camosci alpini lo fanno, Sì. Per quanto ne so. Però non hanno le mani, ma lo fanno con la con bocca. Le corna, o con le corna, con le corna. Ad esempio anche alcuni tipi di uccelli fanno un comportamento molto simile, che si chiama allopreening, che ha lo stesso tipo di valenza, insomma. Ed è un battersi l'un l'altro vicino le ali. E questo grooming viene fatto da grandi, piccoli, maschi, femmine, a tutte le età, insomma, è diffuso, cioè non è che c'è un momento in cui smettano di spulciarsi. Non solo verso le teste calde. Noi non smetteremo mai di avere degli amici e di dimostrare il nostro affetto, insomma anche le scimmie tendono ovviamente a, come dire, preservare, è un comportamento che è fondamentale per la loro vita sociale. Quindi non parlano, ma è questo il loro modo di parlare. Esattamente, insomma. È assolutamente molto simile appunto a questo tipo di comportamento, sì. La dottoressa mi ha raccontato una cosa carina, che nel loro esperimento l'ansia di queste scimmie nel momento in cui aspettano il cibo è un po' paragonabile, dottoressa, ai nostri studenti nella notte prima degli esami. Esattamente, nel senso che i nostri cebi in qualche modo hanno l'esperienza della tensione nella mezz'ora prima che in realtà la distribuzione del cibo avvenga, che è l'effetto che in realtà genera la tensione stessa. e in realtà è molto simile in qualche modo a la notte prima degli esami, ovvero quando gli studenti la notte prima di una prova difficile non riescono a dormire perché sono estremamente tesi. Allo stesso modo i cebi in qualche modo sentono questa tensione nell'appunto mezz'ora ad esempio precedente alla distribuzione del cibo stesso, che è quella che genera in realtà appunto la situazione di stress e di tensione. Vabbè, siamo in periodo di maturità, il consiglio mi pare evidente. Sì, grattatevi. Grattatevi. E spulciatevi. Spulciatevi soprattutto, anche perché con le pulci all'esame può andare male. Eh sì, esatto. Non è bello. Con i puntini che saltellano mentre mi interrogano. Tremendo. Grazie dottoressa Polizzi di Sorrentino, buon lavoro. Prego. E comunque i cebi torneranno protagonisti, io me lo sì, sento. Sì, sì, sento di sì. Arrivederci, grazie. Grazie, arrivederci. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Non ce ne sono più, Paola, almeno qui da noi è difficilissimo. Lì da voi a Boston ce ne sono? Non ne vedo neanche mezza. C'erano anche nelle città, invece non ci sono più. Paola Rebusco, da Boston, ciao. Ciao, buonasera, buonasera. Sempre su Skype per parlare di farfalle. Sono queste che non si vedono più. So che ci devi parlare di farfalle, però in certi posti del mondo invece ce ne sono ancora tante, no? Esatto, parliamo di una farfalla infatti che vive in Asia e in Oceania, nella foresta. E un gruppo di ricercatori, Mattias Kolle, Ulrich Steiner e Jeremy Bamberg, sono riusciti a riprodurre i colori di questa farfalla che si chiama Papilio Blumei, una bellissima farfalla verde ai nostri occhi. Verde per noi, perché poi esatto. So che poi ci racconterai che dopo, cosa significa questo per noi e per chi altro. Va bene, poi cosa è successo? Dunque, il colore delle farfalle, bisogna sapere, questi bellissimi colori iridescenti, non sono dovuti a dei pigmenti, a dei coloranti. Ma dipendono da come la luce rimbalza e si rifratte sulle strutture microscopiche che costituiscono le ali. Sì, cioè tu dici non c'è un colore che dipinge le ali, è un po' come con le bolle di sapone, una roba del esattamente, genere. Esattamente, esattamente. Cioè la luce arriva e trova una qualche struttura sulle ali che fa sì che ci torni indietro il verde, per esempio, come colore. Sì, e sono delle strutture, nel caso di questa farfalla, che sono simili all'interno dei cartoni delle uova, su scala minuscola però, microscopica. Ah, quelle collinette di cartone su e giù col buco per l'uovo. Esatto, e questa è proprio la grande scoperta. Sono riusciti a capire come sono fatte queste strutture e anche a riprodurle. E quindi questo è già di per sé un dato interessante, ma dov'è che andiamo? Come si può utilizzare questa? Ci sono delle applicazioni promettenti nel campo della stampa di sicurezza, per esempio per fare banconote, passaporti, tutto quello che vogliamo rendere difficile da falsificare. Cioè questa struttura delle ali delle farfalle potrebbe essere utilizzata per esempio su una carta di credito in quei punti che adesso ci sono, anche sono colorati e servono un po' per avere sopra i dati di sicurezza della persona. Esatto, ci sono dei dati che sono crittografati. L'idea è di utilizzare queste strutture artificiali che copiano la struttura delle ali della farfalla per crittografare le informazioni su, come hai detto, carta di credito, banconote, passaporti, qualsiasi tipo di stampa che vogliamo ad alta sicurezza. Perché se pensiamo, ecco, tu hai fatto giustamente quell'immagine dei contenitori delle uova, perché in quegli spazi, diciamo, può essere contenuta dell'informazione riservata e in quel modo, con quella struttura, è difficile da falsificare? Beh, sono delle strutture veramente minuscole che hanno bisogno di alta tecnologia per essere riprodotte, quindi sono difficili, come hai detto tu, da falsificare. Delle piccole variazioni della struttura cambiano il modo in cui viene riflessa la luce e quindi il modo in cui l'informazione viene immagazzinata. Ok, sì, un po' complicato, ma però credo che l'immagine sia chiara. E quindi dalle farfalle alle banconote. Tornando alle farfalle, invece, abbiamo detto che sono verdi ai nostri occhi e agli occhi dei loro predatori. In questo modo le farfalle si possono mimetizzare in una vegetazione verde, appunto. E agli occhi dei loro simili, però, queste farfalle sono di un bel blu brillante. Ah, quindi per le farfalle sono blu e per i predatori sono verde su verde delle foglie. Sì, esattamente. Come si chiama allora, ricordano, questa farfalla che finirà sulle banconote? Speriamo. E la farfalla si chiama Papilio Blumei. Papilio Blumei. Ci sono delle bellissime immagini su internet. Ciao Paola, grazie per queste farfalle danarose. Ciao, buon fine settimana. Ciao. Lo dicevamo in una delle ultime puntate, tutto quello che siamo e che vediamo intorno a noi è fatto di particelle subatomiche. Allora perché stupirsi se la fisica delle particelle si interessa anche di pittura? È così. E ora ve ne parla Barbara Gallavotti. Abbiamo parlato tante volte di fisica delle particelle, in particolare del suo strumento attualmente più avanzato, l'acceleratore LHC al CERN di Ginevra. Abbiamo anche detto che questa fisica, che è pensata per indagare i misteri degli atomi o del cosmo, trova poi applicazione nella vita di tutti i giorni. A volte addirittura ce la stravolge, ce la cambia, come è avvenuto quando ha sviluppato il World Wide Web, rendendo di fatto possibile l'esplosione di Internet. A queste applicazioni è stato dedicato un convegno che si è tenuto all'isola d'Elba, con il titolo appunto di Incontri di fisica applicata. E si è parlato, fra l'altro, del ruolo della fisica nella salvaguardia dei beni artistici. Lo ha fatto Pier Andrea Mandò, direttore del Laboratorio di Tecniche Nucleari per i Beni Culturali, che si trova a Firenze ed è nato da una collaborazione fra l'Università e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Buonasera, Pier Andrea Mandò. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Dunque, fisica e beni artistici sono sempre più spesso affiancati. Ci fa qualche esempio di collaborazione fra i due campi? Beh, ce ne sono molti. Al giorno d'oggi gli stessi storici dell'arte, gli archeologi, gli studiosi in generale dei beni culturali si rivolgono sempre più spesso agli scienziati in generale e ai fisici in particolare per avere risposta a delle cose che interessano loro riguardo a opere d'arte, per esempio lo studio dei materiali o lo studio delle tecniche impiegate, e la fisica nella diagnostica, cioè nella conoscenza, insomma, per rispondere a questi problemi, al giorno d'oggi ha un ruolo, direi, prevalente, perché sostanzialmente le tecniche che mette in campo per risolvere questi problemi sono non invasive, cioè rispondono al problema senza minimamente danneggiare, né per esempio fare prelievi o farli in maniera microscopica. Fra queste tecniche ce ne sono di tutti i campi della fisica, quelle che usano i laser ad esempio, che sia per scoprire la composizione di un materiale, sia per pulire un'opera d'arte, in questo caso si tratta di un intervento, la cosiddetta tecnica di ablazione laser. Un po' quello che fanno i dentisti. Sì, beh, quello lo fanno con gli ultrasuoni, ma nel caso delle opere d'arte, no, delle facciate, dei monumenti, per esempio, oppure delle statuarie in marmo o in bronzo, si può fare con dei laser che, diciamo, rilasciano molta più energia perché devono distruggere lo sporco, però non devono toccare il buono che c'è sotto. Poi ci sono anche tecniche più tradizionali, la radiografia, la tomografia, non solo in medicina si adoperano ormai anche per fare le radiografie ai quadri o alle statue, insomma. Invece voi nel vostro laboratorio usate tecniche nucleari. Per esempio colpite l'opera che volete analizzare con delle particelle e a seconda di come queste sono assorbite oppure sono respinte dal materiale con cui è fatta l'opera, riuscite appunto a risalire a ciò di cui è fatta. Sì, sì, questo è un tipo di tecniche nel laboratorio nostro a Firenze che si utilizzano, si chiamano tecniche di analisi con fasci di ioni, con un acceleratore di particelle si accelerano protoni o particelle alfa o altre particelle, si mandano ad alta energia su una pittura per esempio, e la interazione delle particelle del fascio con gli atomi del materiale che compone l'opera d'arte produce l'emissione di raggi X oppure di raggi gamma, di radiazioni che hanno delle energie caratteristiche degli atomi che le emettono, quindi degli atomi che ci sono. Quindi noi con i nostri strumenti di rivelazione della radiazione possiamo capire qual era la composizione del materiale nel punto su cui mandavamo il fascio, e questo è di grande utilità sia per capire tecniche e materiali disponibili in passato, sia poi anche per sapere come fare i restauri quando sono necessari, utilizzando materiali che distruggano quello che si vuole distruggere, cioè lo sporco, ma non distruggano il materiale buono che c'è sotto. Ecco, lei accennava prima, e ce lo garantisce, penso, che queste tecniche non causano nessun danno all'opera. Assolutamente nessuno, se naturalmente le si sanno usare, cioè nelle condizioni di fasci che utilizziamo noi. Ormai noi abbiamo 25 anni di esperienza e gli storici dell'arte o i direttori dei musei che ci hanno affidato le loro opere ci rincorrerebbero se avessero visto che le prime che abbiamo analizzato hanno subito un danno. Ecco, fra l'altro voi avete analizzato anche delle opere veramente di rilievo, ci fa qualche esempio? Beh, diciamo nel campo della pittura, ad esempio delle pitture su tavola di Leonardo, di Antonello da Messina, di Vasari, di Mantegna, insomma, quindi roba anche di un valore enorme, oltre anche a cose di minore importanza, ma di rilevanza dal punto di vista comunque della storia dell'arte. Voi potete fare anche delle datazioni meno distruttive di quelle che si facciano con le normali tecniche di carbonio 14? Sì, diciamo sempre utilizzando la tecnica del carbonio 14, ma con l'uso di acceleratori di particelle, utilizzando la metodologia che si chiama spettrometria di massa con acceleratore, la quantità di carbonio 14 presente in un reperto, che è poi la chiave per sapere quanto è vecchio quel reperto, questa quantità si può misurare con elevatissima sensibilità e precisione partendo da prelievi, in questo caso si devono fare dei prelievi, ma minuscoli, cioè dell'ordine dei milligrammi di materiale, quindi praticamente in maniera non distruttiva, a fronte con le tecniche tradizionali di misura del carbonio 14 di decine di grammi, o insomma almeno grammi, che erano necessari e che precludevano l'analisi del carbonio 14 su una gran parte di opere o di, diciamo, reperti da datare. Grazie Pierandrea Mandò, buonasera. Grazie a voi, arrivederci. Alcuni progressi delle tecnologie ci forniscono strumenti per lavori che proprio si vorrebbe evitare, ma questo non vuol dire che si tratti di lavori non utili. È il caso delle indagini internazionali sui crimini di guerra. Negli ultimi 15 anni abbiamo assistito a molte guerre locali nelle quali spesso per motivi di odio etnico gli episodi di massacri di massa sono stati non pochi. Bande di armati entrano in un villaggio, compiono una strage e i corpi di centinaia di persone, abbiamo avuto casi anche di migliaia di persone, vengono buttati in fosse comuni. Alla fine dei conflitti i tribunali internazionali, quello dell'AIA, no? Tipicamente lavorano alla costruzione di capi d'accusa per i responsabili. Essere condannati per aver fatto una guerra non è possibile, per una strage, per un massacro di persone non belligeranti lo è. Ma come scoprire, come trovare le prove, come individuare le fosse comuni? Ci sono esperti che lavorano in questo campo e si tratta di un lavoro non facile. La vegetazione copre tutto rapidamente perché queste fosse non sono mai in spazi solo terrosi, le si scoprirebbe facilmente. Certo, si possono vedere strane asimmetrie nel terreno, si possono fare dei carotaggi in questo terreno, ma gli esperti dicono che capita spesso che una fossa non venga individuata solo per una differenza di pochi centimetri nella profondità dell'analisi. È capitato. Quelle fosse poi si sono rivelate per caso, magari per dei lavori di posa, di tubature. Ora sta arrivando una tecnica che sembra possa risolvere il problema. Rilevamento iperspettrale si chiama. I dispositivi sono montati su un aereo, un piccolo aereo, oppure un elicottero, sono mezzi che possono volare a un centinaio di metri dal suolo. In pratica si tratta di particolari macchine fotografiche montate su questi mezzi in grado di rilevare la radiazione luminosa emessa dal suolo, ovvero la vegetazione colpita dalla luce del sole non riflette sempre le stesse frequenze ed è qui infatti che si è scoperto che l'erba che cresce sopra terreni che sotto hanno corpi in decomposizione emette una colorazione diversa. In breve, questi terreni forniscono alla vegetazione una chimica che può avere una sola precisa origine. Potremmo chiamarla la chimica di una strage. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Abbiamo mandato Chiara Albicocco a fare la cavia per un esperimento antistress. Vediamo che cosa è successo. Il dottor Guber Finsterle, ricercatore in psicoacustica e filosofo psicoanalista, è stato selezionato tra gli innovatori italiani che andranno a Shanghai per l'Expo 2010, è stato selezionato dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione. Ecco, che tipo di innovazione, dottore, io sono qua nel suo studio, sto per entrare in terapia, intanto mi introduca soltanto a qual è la sua innovazione e a che tipo di esperienza sto andando incontro. Dunque, l'innovazione a cui specificamente sta andando incontro ora si chiama seduta di PAT o psicoacustica transizionale, consiste nell'ascoltare un suono peraltro molto noto in ambiente tecnico-scientifico e noto anche per non produrre alcun effetto di tipo psichico, che si chiama pink noise. È un suono che si può costruire in laboratorio e che fa parte, diciamo, dei suoni a struttura frattalica, che seguono quindi un particolare algoritmo matematico. Facciamolo sentire agli ascoltatori. Gli ascoltatori avranno sentito che è una specie di fruscio che si potrebbe sentire quando la radio non ha, è sintonizzata, diciamo, su nessuna stazione, perché il vero punto qui sta nel come questo suono viene emesso, che peraltro è appunto la struttura del brevetto. Ma non anticipiamo nulla, entro nella stanza e mi siedo nella sua comoda poltrona e ascolto per 20 minuti questo pink noise, dunque ci sentiamo tra 20 minuti. Oh, ma sensazioni diverse. All'inizio un po' di fastidio, poi mi sono appesantite le mani, poi mi si è appesantita la testa e poi continuavo a sentire come se fosse uno scroscio d'acqua e in fondo dei musicisti che suonavano, provavano gli strumenti. Beh, tra le cose che possono succedere vi sono senz'altro quelle che lei ha descritto e in particolare l'idea che lei si senta un po' come quando si è appena svegliata, diciamo, coincide con l'ipotesi teorica che informa il funzionamento della seduta e che consiste nella sostanza nel modulare lo stato di coscienza e farci accedere ad un differente modo di funzionare del cervello. Questo modo in realtà viene raggiunto anche nel nostro, appunto, vivere quotidiano, sia in parte quando ci addormentiamo che quando ci risvegliamo, cioè quando non siamo ancora né... Nel dormiveglia. Esatto, nel dormiveglia. Diciamo che è una tecnica che consente di raggiungere questi stati, potremmo anche definirli più creativi della mente, in modo scientifico e ripetibile appunto in ogni contesto, perché il sistema è sempre lo stesso, il suono è sempre lo stesso. E uno degli effetti neurofisiologici che si sono potuti misurare più evidenti sono delle sincronizzazioni neurali corticali diffuse. In parole un po' più povere? In parole povere significa che, appunto, immaginiamo un modo convenzionale di funzionare del cervello quando siamo svegli. Ci sono delle aree deputate a elaborare i segnali visivi, delle altre che elaborano i segnali sonori, delle altre che ci consentono di controllare il movimento o la parola o il pensiero. Quando noi parliamo di sincronizzazione corticale o delle aree neurali corticali globale, significa che tutte le aree del cervello fanno la stessa cosa nello stesso momento, il che è un po' paradossale perché appunto ciò non accade in realtà nemmeno quando si dorme. Si potrebbe dire che accade invece quando si va in estasi. In estasi in senso clinico, non in estasi come comunemente la possiamo definire. Qualcuno si starà chiedendo forse la definizione di estasi clinica, magari se ci può dire qualcosa anche su questo. Dunque, per esempio è quando i soggetti si staccano dal corpo, quando questi fenomeni accadono, e incominciano ad avere appunto delle percezioni che afferiscono a un altro campo di eventi. Si può immaginare, appunto, qualcuno immagina che si tratta di campi di eventi, chiamiamoli metafisici o ultraterreni, noi pensiamo molto più semplicemente che si tratti di un accesso a quello spazio mentale primario che in realtà è il primo che la mente fetale esperisce, anche perché noi sappiamo che il feto sogna e se sogna sognerà in uno spazio mentale. Questo spazio mentale è tridimensionale, come noi sappiamo esistere nei sogni, e noi pensiamo che lo spazio che si schiude è proprio questo, in una modalità evidentemente molto particolare, dove appunto può accadere che si producano dei fenomeni, diciamo, spontanei della nostra mente. Però da lì si parte e di solito sono sempre delle immagini o dei fenomeni che hanno una diretta pertinenza con, diciamo, la vita profonda del soggetto. Durante le sedute si scoprirebbe qual è questo significato e il colloquio che segue ha appunto la funzione di in qualche modo aiutare il soggetto a diventare cosciente di quello che si è già rielaborato spontaneamente durante questo, diciamo, momento di iperattività del cervello. Ecco, questo tipo di sedute servono per curare patologie di pazienti di che tipo? Servono sia per curare, sia per migliorare in senso generale le prestazioni psicofisiche. Tipicamente sono stati studiati, per esempio, in relazione al mal di testa, cefalemi, crani, eccetera, sì. Insomma, comunemente lo chiamiamo mal di testa, piuttosto che anche di svariate altre patologie, tra cui per esempio gli acufeni. Ma io aggiungerei anche tutti i disturbi di natura, diciamo, psicologica. Potrebbero sicuramente l'ansia, dove questa seduta si è rivelata particolarmente efficace, anche su soggetti che non si è riusciti a trattare né farmacologicamente né con psicoterapia. E ora veniamo al suo brevetto, al software che permette di fare tutto questo. Il sistema audio che consente di ottenere questi effetti, che si realizza attraverso il software e evidentemente dei diffusori, cioè delle casse acustiche, è tutto un sistema dove anche le casse hanno una posizione particolare, insomma si tratta di un sistema tecnicamente parlando a multigradiente ipersincronizzati. Adesso tradurlo in termini pratici, appunto, bisogna fare delle operazioni per cui i suoni arrivino entro un tempo molto definito tra frontali, emissione frontale e emissione posteriore, e questo appunto si controlla tutto attraverso il software. Quindi è prevalente il modo in cui il suono arriva rispetto a quale suono stiamo utilizzando, tanto che per esempio si è notato che anche vedendo un film qualche soggetto si è chiesto come facessero a passargli gli attacchi di panico. Soggetti che venivano per ascoltare musica, non per fare una... Perché questo tipo di software, noi backstage l'abbiamo sentito, può essere utilizzato anche per ascoltare la musica, guardare un DVD, guardare un film. Mi verrebbe quasi da chiedere a lei qual è la differenza che ha percepito. Sì, devo dire che la differenza è altamente percettibile. Possiamo anche dire più tridimensionale? Sì, possiamo dire. Come se fossero degli ologrammi che si creano lì di fronte. E se potessimo aggiungere che, appunto, che è una via di mezzo tra percepire e sognare, ecco, io credo che a quel punto avremmo colto perché questo sistema è in grado di farci stare meglio, perché aumenta la capacità del cervello di trovare nuove connessioni e anche di sentire meglio il suono in generale, se appunto ascoltiamo della musica o dei film, perché a parità di quantità di informazione che viene inviata, perché non avviene nessuna elaborazione particolare, cioè non è una specie di effetto eco o riverbero o cose del genere, è proprio un modo diverso di mandare le stesse informazioni al sistema uditivo che ovviamente elabora attraverso il cervello l'esperienza fenomenologica che poi ne deriva, e questo cambio di percezione ha a che fare, secondo me appunto, proprio con il fatto che in quel momento siamo in una situazione di transizione tra percepire e sognare. E questa fusione tra percezione e sogno in realtà poi è un po' la stessa cosa che può accadere quando ci incantiamo ad un concerto live. E ci è parsa un'esperienza meravigliosa. Siamo alla soluzione del quiz. La domanda era: che cos'è il tacchino induttivista? Niente tacchini indiani, niente personaggi da favola. La risposta giusta è la seconda. Il tacchino induttivista è un esempio usato in filosofia. Però Bertrand Russell in qualche modo c'entra. Dunque, induttivista deriva da induzione. Che cos'è un ragionamento induttivo? Vediamo un po'. Vedete un bel volatile completamente nero, poi ne vedete un altro uguale, anch'esso nero. Decidete di chiamarli corvi. Ne vedete un terzo, un quarto e tanti altri, tutti uguali. A questo punto decidete che tutti i corvi sono neri, perché ne avete visti 100 neri e pensate che si possa dire la stessa cosa anche per quelli che non avete visto. Questo è il metodo induttivo, molto usato in filosofia, fino a quando un grande filosofo del secolo scorso, Karl Popper, ci ragionò sopra e capì che il metodo rimandava pure a un certo buon senso, ma non era affatto rigoroso. Bertrand Russell, ecco, fu lui che tirò fuori l'esempio del tacchino, il quale... Il tacchino continua a vedere il contadino che ogni giorno gli porta il cibo, ogni giorno, per 2 anni. Poi arriva una certa mattina di Natale, lui è contento di vedere il contadino e questo non gli dà il cibo, ma gli tira il collo. La sostanza è questa, la diatriba filosofica sull'induzione fu un po' più complessa di come ve l'ho venduta io, però insomma neanche tanto. Questa era la soluzione. Va bene, diciamo qualcosa anche noi sullo standard della nostra classe politica. Non lo facciamo mai, facciamolo almeno una volta e naturalmente per questioni che hanno a che vedere con la scienza, in particolare con l'uso della matematica. Ne abbiamo parlato prima, lo facciamo anche adesso. Meglio ancora, con la capacità di usare il far di conto per misurare quello che si dice in generale. E su questa direzione, ovvero l'uso dei dati, capita spesso di sentire sbandamenti notevoli da parte dei nostri parlamentari. Questa settimana, fra le innumerevoli polemiche intorno al decreto intercettazione, è uscito questo scenario drammatico. 7,5 milioni sono gli italiani che possono essere intercettati. Ora, gli autori della profezia sostengono che con questa cifra si vuol dire che, partendo dalle agende di coloro che sono stati intercettati e procedendo nell'intercettazione di tutti gli indirizzi di tali agende, si arriva a 7,5 milioni. Beh, certo, ma il numero 7,5 milioni fa effetto perché crea l'immagine di un 12% di italiani, infanti compresi e ragazzini di 10 anni, che possono essere ascoltati. Allora facciamo due conti. Se ci si limitasse ad ascoltare un solo minuto di telefonate per ogni intercettabile, si arriverebbe a 5.208 giorni di registrazioni da sbobinare. Sono circa 14 anni, però è verosimile che si ascolti almeno un'ora per fare un inchiesta che dia dei risultati. Arriviamo a 312.000 giorni circa. Naturalmente qui chi ascolta non deve dormire mai. Se invece pensiamo ad ascoltatori umani che origlino per 8 ore al giorno, eccoci a 937.000 giorni circa. Vogliamo mettere 1.000 persone a fare questo lavoro? Guardate che è uno sproposito, ma non importa. 1.000 persone, ognuna delle quali lavora 8 ore. Siamo al dato finale. Ci vorrebbero 2,5 anni per sbobinare. Poi deve incominciare la lettura da parte degli inquirenti. La sensazione è che dopo 20 anni forse si potrebbe arrivare a formulare qualche prima accusa, avendo a disposizione qualche migliaio di giudici che facciano solo questo lavoro. Tutte le altre cause rimandate alla fine di questo secolo, anche quelle di divorzio, ovviamente. Tutto, vi abbiamo detto tutto per questa puntata. Ci sarebbe molto altro da dire. Come diciamo nella sigla introduttiva, il viaggio nella scienza è infinito e la prossima settimana faremo un altro passo. Buona serata a tutti e a tutte. Radio 24 e Fondazione Sigma Tau vi hanno presentato Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.